Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, Italia in controluce, le storie della cronaca anche quando non occupano le prime pagine dei giornali, i fatti, i personaggi di quell'Italia che ha qualcosa da raccontare a tutti noi. Nei giorni in cui si è tornati a parlare di Bettino Craxi, per alcuni uno statista morto in esilio, per altri invece un politico corrotto, c'è un altro ex socialista che merita attenzione, l'ex presidente dell'Abruzzo Ottaviano Del Turco. È stato l'ultimo segretario del PSI, ministro nel governo Prodi, quindi presidente della sua regione, carica dalla quale ha dovuto dimettersi dopo l'arresto nel 2008 con l'accusa di corruzione. A oltre un anno di distanza ci siamo chiesti che fine ha fatto quell'accusa. Stefano Totoro. Sanitopoli, cioè, perché erano mascalzoni coloro che usavano il denaro pubblico per fare i loro affari privati. Ottaviano Del Turco è stato arrestato il 14 luglio del 2008, prelevato dalla sua abitazione di Collelongo, in provincia dell'Aquila, dagli agenti della Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Pescara. Un anno e mezzo fa era il presidente della Regione Abruzzo. Quel giorno il procuratore capo del capoluogo abruzzese, Nicola Trifuoggi, parlò di prove schiaccianti a suo carico. Abbiamo ritenuto di avere la prova del pagamento di una barca di soldi. Complessivamente stiamo parlando di circa 30 miliardi di lire. Corruzione, concussione e associazione a delinquere. Le accuse a carico di Del Turco e di altri 33 indagati fra assessori e funzionari pubblici sono scaturite dopo lunghe deposizioni dell'imprenditore della sanità Vincenzo Angelini, il patron delle cliniche abruzzesi. Il suo avvocato è Sabatino Ciprietti. Il processo dice che lui subiva le concussioni dove si diceva: attento che dietro di te c'è la procura, attento che solo noi ti possiamo salvare, però stati tranquillo che noi ti proteggiamo. Del Turco è in carcere, lo vanno a trovare tanti esponenti del centrodestra, mentre del PD, il suo partito, si fa vedere solo Franco Marini, e l'allora segretario Walter Veltroni rilascia una fredda dichiarazione augurandosi la sua totale estraneità ai fatti. Un anno e mezzo dopo Del Turco non ha dimenticato la solidarietà soprattutto di una persona. Mi ha molto colpito la solidarietà di Berlusconi. Lui disse subito che quello dei giudici era un teorema, che quello della procura era un teorema. Subito, dice Del Turco, non dopo 18 mesi, non soltanto ora, quando cioè viene reso noto un rapporto dei NAS che riaccende il caso abruzzese, più dal punto di vista politico che giudiziario. Documento datato giugno 2008, un mese e mezzo prima dell'arresto del governatore, i militari mettono in luce i debiti fatti dalla giunta di centrodestra che precede quella di Del Turco. I carabinieri sollecitano l'arresto di Angelini, ma la procura non lo chiede. Un mese dopo, al contrario, con le indagini della finanza che si svolgevano in parallelo, viene firmata l'ordinanza che chiede l'arresto del governatore. Marco Alessandrini ha un cognome importante. Il padre Emilio, giudice, è stato ucciso nel 79 a Milano da Prima Linea. A Pescara Marco fa l'avvocato, è un esponente del PD ed è sceso in campo per chiedere un processo rapido. Io penso che la vicenda del Turco sia emblematica dei rapporti che in una regione come l'Abruzzo da qualche anno intercorrono fra politica e magistratura. Non vi è ancora la richiesta di rinvio a giudizio ed emergono delle incongruenze, chiamiamole così. Noi certamente non gridiamo al complotto, tuttavia poniamo l'esigenza di un processo in tempi ragionevoli. Il PD si riavvicina a Del Turco, il PDL non si è mai allontanato dall'ex governatore. Ora, in questa regione, mentre in Parlamento naufraga un accordo sulla giustizia, i due schieramenti si tengono per mano e vogliono un processo rapido. E Angelini, il grande accusatore, mentre la politica si aggrappa al rapporto dei NAS, le sue cliniche stanno per fallire, con i dipendenti senza stipendio da quasi un anno. Il suo avvocato, Sabatino Ciprietti. Si vuole dire una cosa semplice: Angelini mi ha attaccato perché lui aveva difficoltà economica, e adesso si dice: vedi che è vero che questo aveva le difficoltà economiche, guarda, sta fallendo. Ma io poi vado a vedere perché lui sta fallendo, perché in due anni si sono creati tanti di quegli ostacoli che l'azienda si trova in difficoltà economiche. Sembra che l'Abruzzo sia diventato il teatro delle prove generali per un accordo sulla giustizia, lo conferma e lo spera anche Ottaviano Del Turco. La mia vicenda è qualcosa che può essere assunta come modello sulla questione del processo breve. Dopo 18 mesi, e si parlò di montagna schiacciante di prove, si poteva immaginare un processo per direttissima, rapidissimo, se invece dopo 18 mesi ancora si deve pronunciare un giudice terzo su questa vicenda. Ed è anche Ciprietti, avvocato di Angelini, che intravede però, a danno eventualmente del suo cliente, un banco di prova per un accordo sulla giustizia. In questo periodo, per esempio, c'è il giornale, che certamente di fede berlusconiana, che attacca Angelini e che ricrea una specie di verginità a Del Turco in un momento, voglio dire, non palesemente chiaro. Non ci scordiamo che Angelini ha parlato non solo di Del Turco, ma ha parlato di Aracu, che è un esponente importante della parte di destra. È una ricostruzione che avviene in un determinato periodo, non c'è stato questo 2 anni fa. Dalla procura trapela soltanto una breve dichiarazione del procuratore Trifuoggi: bisogna difendersi nel processo e non dal processo. Intanto però un'interrogazione parlamentare firmata da deputati PD e PDL chiede al ministro Alfano se non ritenga di dover assumere iniziative ispettive nei confronti della procura di Pescara. Italia in controluce. E se Ottaviano Del Turco resta in attesa di conoscere il suo destino giudiziario, c'è invece chi il proprio destino tragico l'ha scoperto all'improvviso nella cella di sicurezza ad un tribunale. È la storia di Stefano Cucchi. A più di 3 mesi dalla morte di questo ragazzo di 31 anni avvenuta all'alba del 22 ottobre in circostanze poco chiare, dopo 7 giorni di detenzione in carcere, né la giustizia né l'amministrazione penitenziaria hanno ancora saputo individuare un responsabile. Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, racconta. Mio fratello fu arrestato la notte tra il 15 e il 16 ottobre. Venne portato a casa per la perquisizione intorno all'1:30 del mattino. Poi è stato portato alla stazione dei carabinieri di Porta Pienza fino alla mattina seguente, quando poi è stato portato a Piazzale Clodio in tribunale per la direttissima. In questa udienza in tribunale, secondo le prime testimonianze, già suo fratello riportava dei segni sul volto. Segnato. Esattamente, c'è da sottolineare che la sera precedente lui non aveva assolutamente alcun tipo di segno e camminava benissimo. È stato detto che Stefano era anoressico, che era uno spacciatore, un drogato. Può darsi, ma Stefano era sano prima di entrare in carcere, come dimostrano alcune testimonianze. Poi le foto che lo mostrano col volto tumefatto non lasciano dubbi. Intanto la sua famiglia cerca di contattarlo, ma senza riuscirci. Ma non solo di contattare lui, almeno di avere sue notizie, per cui c'era questo continuo prendere tempo o comunque non darci mai alcuna informazione precisa. Noi abbiamo avuto notizia del suo ricovero il sabato successivo, quindi il 17, immediatamente la sera stessa i miei genitori si sono recati al pronto soccorso del San Robertini e gli è stato detto che non gli si poteva dire nulla e che se avessero voluto avere notizie da parte dei medici sarebbero dovuti tornare il lunedì successivo in orario di visita. Loro così hanno fatto, quindi è passata la domenica e il lunedì sono andati la mattina al reparto detentivo, è stato detto che non era arrivata a loro l'autorizzazione da parte del carcere. Un agente gli ha detto: non vi preoccupate, il ragazzo è tranquillo. Ma tranquillo, in quei momenti Stefano non era davvero. Stefano ha concluso la sua vita in modo disumano e degradante, passando attraverso un'incredibile, continuativa, mancata risposta all'effettiva tutela dei diritti, in tutte le tappe che l'hanno visto imbattersi nei vari servizi di diversi organi pubblici. Questo non lo dice la famiglia di Stefano Cucchi, ma è il risultato di un'indagine dell'amministrazione penitenziaria 3 mesi dopo i fatti. L'odissea della famiglia di Stefano, che non sa nulla di lui, continua. E continua l'isolamento del ragazzo che piano piano rifiuta il cibo e si lascia andare. Immagino quale poteva essere il suo stato emotivo in quella particolare circostanza. Sembrerebbe che il suo non alimentarsi era motivato fin dal primo giorno d'ingresso a Pertini al fatto di voler parlare con l'avvocato o con l'assistente della comunità terapeutica, che era per lui un grande punto di riferimento. Come avete saputo della morte di Stefano? Abbiamo saputo a svariate ore di distanza dal suo decesso tramite il decreto con il quale il PM autorizzava l'autopsia sul corpo di Stefano. Ma che cosa è successo in quelle ore tra l'arresto la sera del 15 ottobre e il trasferimento a Regina Coeli? Stefano ovviamente ha subito delle percosse, e dopodiché ora certo si tratterà di individuare per mano di chi, come è avvenuto, i motivi di queste lesioni che purtroppo avete potuto vedere tutti. Senta, c'è stato anche un testimone, un altro detenuto, che a un certo punto ha detto che suo fratello era stato aggredito in determinate circostanze in carcere. Che seguito hanno avuto queste denunce? Ma diciamo c'è stata questa testimonianza, quella dell'incidente probatorio, per cui sembrerebbe che Stefano ha subito un pestaggio nei sotterranei del tribunale. Ma Ilaria Cucchi, una donna dallo sguardo intenso e che sa sorridere, adesso non si dà per vinta e porta comunque un messaggio di fiducia. Nei primi momenti c'era stata una sensazione di totale sconforto e abbandono di fronte a questa morte per la quale temevamo di non avere mai risposte. Ora sono fiduciosa nel lavoro in particolare della magistratura e mi auguro che ci vengano date al più presto delle risposte. Io non posso pensare di non sapere cosa è accaduto a mio fratello. Senta, le è stata anche offerta una candidatura alle regionali, lei ha rifiutato, perché voi chiedete giustizia tramite la giustizia, non attraverso la politica, è così? Questa cosa per me sarebbe impensabile. Io e la mia famiglia dobbiamo avere giustizia da semplice cittadino italiano, perché la giustizia ritengo ci sia dovuta, la verità è la giustizia, come cittadini. È tutto per Italia Incontro Luce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci per raccontarci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook. Ci risentiamo alla prossima edizione domani mattina alle 6:30. Buona giornata da Alessio Maurizio.